Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Tutti, svobodan prajak, nije ratni zločinac, s prijezirom odbacujem vašu presudu. Stop, please. Please sit down. I have taken poison. Notre client dit qu'il a bu un poison ce matin. Yeah, okay. We suspend, please, the curtains. Questo è l'audio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, del dramma che si è consumato oggi davanti ai giudici del Tribunale dell'Aia, il Tribunale contro i crimini di guerra, con appunto uno di questi criminali, un generale, ex generale croato, uno dei protagonisti della guerra nell'ex Jugoslavia, che alla lettura della sentenza, erano proprio quei momenti che avete sentito, la sentenza di condanna a 20 anni, improvvisamente davanti ai giudici, quindi davanti anche alle telecamere, ha bevuto una fialetta di veleno e si è praticamente suicidato lì. Adesso questa cosa l'avrete vista un po' su tutti i siti, era una notizia dominante di oggi, proprio anche, diciamo, per questa come possiamo dire, scena anche teatrale, no? Tra l'altro lui era anche, aveva tre lauree, era un regista, forse ha scelto anche proprio questa cosa, un po' cinicamente detto, però di fare di mettere in scena questa sua morte davanti a tutti. Ne parleremo in modo anche da poter ripercorrere un po' gli orrori di quella enorme guerra civile che si è consumata all'inizio degli anni 90 nell'ex Jugoslavia. Poi ci occuperemo di molte altre cose nostrane, come l'ILVA, l'avvertenza dell'ILVA che improvvisamente viene congelata. Sapete, un problema annoso sempre quello per quanto riguarda l'ILVA di Taranto, il più grande sito siderurgico d'Europa, di mantenere insieme da una parte la salute della popolazione, dall'altra il livello di occupazionale. Poi c'è questa grande novità a Milano: domani inaugura City Life District, che è il più grande centro commerciale, una cosa enorme, il più grande d'Italia, e anche con gli spazi pedonali forse più grandi d'Europa. Insomma, già a vari record ancora prima di nascere domani l'inaugurazione. Per i vostri commenti, per le vostre opinioni sui vari fatti di questa puntata, fatti principali della giornata, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Quindi, prima di tutto, però, vi racconto in sintesi la giornata. La manovra economica, tensione nella maggioranza sul bonus bebè. Alternativa Popolare chiede che la norma valga per i primi anni di vita del bambino. Il governo rassicura, il bonus è una misura strutturale. Suicidio davanti al Tribunale dell'Aia, la lettura della condanna a 20 anni per crimini di guerra. L'ex generale croato Prajak beve il veleno e muore. Corea del Nord, dopo il lancio del missile intercontinentale da parte di Pyongyang, Trump annuncia nuove sanzioni e si riunisce il Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Vaticano, un alto dirigente dello IOR, la Banca Vaticana, licenziato e scortato fuori dalle mura. L'avvertenza dell'ILVA, scontro tra governo e regione, il ministro Calenda congela il negoziato. L'omicidio di Maria Grazia Cutuli, due afghani condannati a 24 anni per la morte dell'inviata del Corriere della Sera, uccisa nel 2011. Sport, l'Alfa Romeo torna in Formula 1 dopo 32 anni e a Milano ha presentato il Giro d'Italia 2018, più di 3.500 km da Gerusalemme a Roma. Partiamo quindi subito dalla manovra economica che arriva in Senato e c'è tensione nella maggioranza sul bonus bebè. Approda in Senato la manovra 2018 dopo l'esame e le correzioni messe a punto dalla Commissione Bilancio di Palazzo Madama. Degli oltre 4.700 emendamenti presentati, solo 173 sono stati approvati in Commissione, che ha concluso i lavori dopo una maratona notturna. Fra le novità dell'ultima ora c'è il via libera al bonus bebè, che diventa strutturale ma in versione alleggerita. Nel 2018 quindi l'assegno per i nuovi nati sarà di 80 euro al mese, mentre dal 2019 sarà dimezzato a 40 euro mensili. Il bonus, ha chiarito il capogruppo PD in Commissione Bilancio, Giorgio Santini, dopo le proteste di EP, è triennale, cioè fino ai 3 anni di vita del bambino, come previsto dalla legge, e nel primo anno di vita ammonterà a 80 euro mensili per poi essere dimezzato. Sul fronte bancario, in arrivo il fondo da 50 milioni in 2 anni per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto dalla crisi delle 4 banche a risoluzione e delle 2 banche venete. Il ristoro è però subordinato al riconoscimento del danno con sentenza passata passata in giudicato o davanti all'arbitro. Via libera anche alla proroga per tutto il 2018 delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza a fine 2017, un provvedimento che riguarda circa 4.000 vincitori e 150.000 idonei a selezioni pubbliche. Superato l'esame dell'Aula del Senato, la manovra è attesa alla Camera. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E adesso il tema dei bitcoin, che fa discutere non solo il mondo della finanza. Un anno fa era poco sopra i 700 dollari. Di record in record, il bitcoin ora supera anche la soglia degli 11.000 dollari. Nelle ultime 24 ore la moneta virtuale ha messo a segno un rialzo del 13%, raggiungendo il suo nuovo massimo storico. Un successo che attira l'interesse degli investitori, ma alimenta anche perplessità e timori da parte di economisti e banche centrali. Si tratta di attività difficili da regolamentare e vulnerabili a crisi di sfiducia che possono essere repentine, mette in guardia il vice direttore generale di Banca Italia, Panetta. Secondo il premio Nobel per l'economia Stiglitz, invece, quella del Bitcoin è una bolla che regala forti emozioni, ma la criptovaluta ha successo solo per il suo potenziale di aggirare le regole e per la mancanza di supervisione, e per questo, sostiene Stiglitz, dovrebbe essere vietata. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora quello di cui parlavamo all'inizio, cioè questo suicidio davanti al tribunale dell'Aia. Il primo ministro croato Andrej Plenković ha annunciato per domani una seduta straordinaria del Parlamento dopo la morte appunto dell'ex generale croato Slobodan Praljak, poche ore dopo aver bevuto il veleno davanti ai giudici che lo hanno condannato a 20 anni di carcere per crimini di guerra. Slobodan Praljak non è un criminale di guerra e con sdegno respingo la sentenza del Tribunale Penale Internazionale che aveva confermato la sua condanna a 20 anni di carcere. Poche parole prima di bere da una bottiglietta il veleno che poche ore dopo lo ha ucciso. Panico in aula e udienza sospesa. Ora si indaga sull'accaduto per capire come Praljak sia riuscito ad entrare in aula con quel veleno. La presidente della Croazia ha interrotto una visita in Islanda ed è in viaggio per tornare a Zagabria, un paese attonito di fronte al suicidio pubblico di un generale non di secondo piano. Slobodan Praljak ordinò la distruzione del vecchio ponte di Mostar, perla dell'architettura ottomana del Cinquecento. Era un legittimo obiettivo militare, secondo i giudici del Tribunale Internazionale dell'Aia, che hanno confermato in appello le condanne per crimini di guerra in totale per 6 massimi esponenti politici e militari croato-bosniaci. Anna Rita D'Ambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi, come vi dicevo, torniamo a parlarne, anche per ripercorrere la storia orrenda della guerra nell'ex Jugoslavia. Restiamo ancora all'estero, Corea del Nord, che ha annunciato di essere uno stato nucleare dopo l'ultimo test di un missile balistico intercontinentale capace di raggiungere tutti, anche gli Stati Uniti. Trump ha chiesto al presidente cinese Xi di convincere Pyongyang a porre fine alle sue provocazioni e ha annunciato nuove sanzioni. Pechino si dice pronta a spingere verso una soluzione con mezzi pacifici e in serata c'è la riunione del Consiglio di Sicurezza, quindi più tardi ci colleghiamo con gli Stati Uniti per capire se ci sono delle novità in questo senso. It is our collective shame that you were so mistreated. And it is our collective shame that this apology. Questo è il primo ministro canadese, il giovane Justin Trudeau, che si sta scusando ufficialmente con le lacrime agli occhi con la comunità LGBT, lesbica, gay, bisessuale e transessuale, per le oppressioni commesse dai governi precedenti negli anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. Questa, sta dicendo, è una storia devastante di persone che furono definite criminali dal governo, persone che persero mezzi di sostentamento e in alcuni casi la vita. Trudeau ha anche aggiunto che queste pratiche del governo non sono accadute in un'epoca molto remota, ricordando come le cosiddette purghe anti-gay furono atti perpetrati in Canada dagli anni 50 e fino agli anni 90. Durante quel periodo migliaia di canadesi impiegati statali, donne e uomini, persero il posto di lavoro perché considerati gay o transgender. Oltre alle scuse, il governo canadese ha anche stanziato 100 milioni di dollari a titolo di risarcimento nell'ambito di una class action in cui vengono chiesti 600 milioni di dollari. Tra le altre azioni, Trudeau prevede anche di istituire una commemorazione nel 2019 in occasione del 50° anniversario dalla depenalizzazione del reato di omosessualità. L'omosessualità è stato un reato in Canada fino al 1969. E ora in Vaticano con una notizia su cui ancora c'è un velo di mistero. Nuova crisi nelle finanze vaticane che si consuma mentre il Papa è in viaggio in Asia. Lo IOR, la Banca Vaticana, ha licenziato in tronco il vice direttore generale Giulio Mattietti, funzionario di lungo corso dell'istituto, nominato nell'incarico solo 2 anni fa. La sua era stata una nomina che, assieme a quella del direttore generale Gianfranco Mammì, che resta al suo posto, rappresentava un segnale di cesura con un passato di gestioni problematiche. Ma evidentemente c'è stato qualcosa che non ha funzionato e indagini interne hanno rilevato fatti tali da portare il suo licenziamento, che, a quanto trapelato, sarebbe avvenuto alla maniera delle banche americane, cioè con accompagnamento all'ingresso. Questa decisione clamorosa segue di pochi mesi un provvedimento analogo verso l'allora revisore generale dei conti, Libero Milone, che ancora non è stato sostituito nell'incarico. Deciderà il Papa al suo ritorno a Roma. Carlo Marroni, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Città del Vaticano. Migranti, una task force congiunta tra Unione Europea, Unione Africana e Nazioni Unite per proteggere i migranti lungo le rotte migratorie e in particolare in Libia. E quanto è stato deciso di rafforzare nel corso di un incontro durante il vertice fra Europa e Africa in corso in Costa d'Avorio, il presidente della Nigeria ha annunciato il rimpatrio di tutti i migranti nigeriani bloccati in Libia. Ha definito scioccante che alcuni nigeriani sono stati venduti all'asta come capre per pochi dollari in Libia, anche se forse non saprà che anche verso l'Italia c'è un traffico di povere donne nigeriane poi costrette, schiavizzate nella prostituzione. L'avvertenza dell'ILVA, per ritornare a cose nostre, scontro aperto tra governo da una parte e regione comune di Taranto dall'altra, dopo la decisione della Puglia di impugnare il decreto sul piano ambientale dell'ILVA. Non esiste un piano B, attenti a far saltare tutto, ha detto il ministro dell'Ambiente Galletti. Calenda accusa il ministro dello sviluppo economico, gli enti locali di schizofrenia, congela il negoziato e attende la decisione del TAR di Lecce. Emiliano, il presidente della regione Puglia, dice il governo cerca un capro espiatorio per il suo fallimento. E nel corso di Effetto Noto cerchiamo di capirci qualcosa di più. Poi l'omicidio di Maria Grazia Cutuli. 16 anni dopo l'omicidio dell'inviata del Corriere della Sera sono arrivate le condanne per i 2 afghani in carcere nel loro paese accusati di questo omicidio. I 2 hanno però annunciato ricorso in appello. E poi la Gran Bretagna, dei libri che insegnano che i mariti hanno il diritto di picchiare le mogli, che le donne sono inferiori e che non devono nutrire particolari ambizioni, e quanto gli ispettori scolastici britannici hanno rinvenuto in diverse scuole islamiche inglesi, suscitando non poche polemiche. In Inghilterra esistono 177 scuole musulmane, diverse delle quali finanziate dallo Stato, e mentre molte sono considerate di buon livello, in alcune si constata che si inculcano valori in contrasto con quelli britannici. Novità a Milano, apre domani City Life Shopping District, il distretto commerciale urbano più grande d'Italia, 2 miliardi di euro di investimento complessivo, che comprende anche la parte residenziale, commerciale, negli uffici, nei 3 grattacieli firmati dalle archistar Isozaki, poi Hadid e Libeskin. Quest'ultimo deve ancora essere costruito, oggi l'anteprima per la stampa, poi da domani aperto al pubblico. Per chiudere lo sport, ciclismo, il Giro d'Italia 2018 partirà per la prima volta fuori dall'Europa. Lo start è infatti previsto da Gerusalemme venerdì 4 maggio. L'arrivo è previsto a Roma domenica 27 maggio. La 101esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo conta, come al solito, 21 tappe per un totale di 3.546,2 km. E dopo 32 anni di assenza torna in Formula 1 il marchio Alfa Romeo grazie a un accordo firmato con la svizzera Sauber. La nuova scuderia che utilizzerà i motori forniti dalla Ferrari si chiamerà Alfa Romeo Sauber Formula 1 Team. Ancora non si conoscono i nomi dei 2 piloti. E a questo punto direi chiusa la sintesi della giornata. Aggiorniamo chi sta viaggiando. Tra poco quindi cominciamo con alcuni temi insieme agli ospiti. Per i vostri commenti sempre pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666. Lino scrive Bitcoin, qualche politico italiano sta già meditando di distribuire 1/80 ai suoi potenziali elettori. Vabbè, ogni tanto la vostra ironia, ci sentiamo a momenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ho raccontato in questa sintesi della giornata, come sempre ricordatevi di accendere puntualmente alle 21, anche se poi vi ricordo ovviamente i fatti, i titoli principali. Per i vostri commenti, pagina Facebook di Effetto Notte oppure 349-238-6666, che è il numero per SMS e WhatsApp. Nicola da Milano dice: cara Roby, questo generale suicida ha avuto fegato, da autentico militare ha preferito annullarsi pur di non subire l'onta del carcere, onore a lui, benché colpevole. D'accordo Nicola, riconosciamo almeno, dici, l'onore come l'onore delle armi, si direbbe, a proposito appunto del criminale di guerra che oggi condannato, l'avete sentito nell'incipit, a 20 anni di carcere dal tribunale dell'AIA per i crimini di guerra, che si è suicidato lì al momento proprio davanti ai giudici con una fialetta di veleno. Adesso parleremo però di cose nostre, di cose nostrane, della difficile vertenza dell'Ilva, il più grande sito siderurgico d'Europa, che però da tempo decisamente in crisi, e vi ricordo anche, come vi dicevo, i fatti principali della giornata. Manovra economica, tensione nella maggioranza sul bonus bebè, Alternativa Popolare chiede che la norma valga per i primi anni di vita del bambino, il governo assicura che il bonus è una misura strutturale. Suicidio davanti al tribunale dell'AIA, alla lettura della condanna a 20 anni per crimini di guerra, l'ex generale croato Prajak beve il veleno e muore. Corea del Nord, dopo il lancio del missile intercontinentale da parte di Pyongyang, Trump annuncia nuove sanzioni e seduta riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Mistero su una notizia che arriva dal Vaticano, un alto dirigente dello IOR, della Banca Vaticana, è stato licenziato e scortato fuori dalle mura. L'avvertenza dell'Ilva, di cui parleremo tra pochissimo, e poi l'omicidio di Maria Grazia Cutuli, l'inviata del Corriere della Sera, morta nel 2001, sono stati condannati a 24 anni due afghani accusati di questa morte. Per lo sport, l'Alfa Romeo che torna in Formula 1 dopo 32 anni, e a Milano è stato presentato il Giro d'Italia 2018 che partirà da Gerusalemme. E adesso vi dicevo, concentriamoci quindi sulla difficilissima vertenza dell'Ilva di Taranto, che tra impianti, ciminiere, nastri trasportatori, parchi minerali si estende per 15 milioni di metri quadri, più del doppio della stessa Taranto, vi dicevo, l'acciaieria più grande d'Europa, una fabbrica nata negli anni 60 sulla scia della industrializzazione del Mezzogiorno di quegli anni e poi è cresciuta negli anni 70, appartenuta allo Stato fino al 1990. Che era controllata attraverso l'IRI e poi privatizzata e ceduta alla famiglia, al gruppo siderurgico di Emilio Riva. Poi sono arrivati guai giudiziari per i Riva, condanne per inquinamento al termine di una grossa inchiesta, il sequestro degli impianti, perché i giudici scrissero che la fabbrica era fonte di malattia e di morte per la popolazione circostante. Un'accusa poi certificata dalle perizie, scattano i primi arresti anche per quanto riguarda Emilio Riva e i suoi figli, man mano precipita la situazione della fabbrica sino alla vendita al gruppo ArcelorMittal e poi l'avvertenza che è sempre più rovente. Su questo coinvolgo il nostro Domenico Palmiotti, collaboratore del Sole 24 Ore. Ciao Domenico. Buonasera, ciao Roberto. Da Taranto. Allora, dicevo, l'avvertenza è sempre difficile, che adesso è in corso uno scontro, no? Dicevamo, tra governo da una parte e dall'altra parte Regione Puglia e Comune di Taranto, all'indomani della decisione della Puglia di impugnare il decreto sul piano ambientale dell'Ilva. Il ministro Calenda allora si è arrabbiato, ha congelato il negoziato. Vogliamo sentire il ministro dello sviluppo Calenda cosa ha detto. Il tema è vedere cosa dice il TAR di Lecce. Se il TAR di Lecce dà la sospensiva, gli amministratori straordinari saranno obbligati, noi faremo ricorso al Consiglio di Stato nel caso, ma saranno obbligati a iniziare le procedure di spegnimento. È una gestione schizofrenica, io onestamente non capisco. Se Regione e Comune usano tutti i mezzi possibili per far saltare l'Ilva salta. Perché non è che si può fare ovviamente un investimento di quelle dimensioni contro la regione e il comune, ma se ne devono assumere la responsabilità, devono dire chiaramente che loro vogliono la chiusura dell'Ilva. Dopodiché è una posizione che io non condivido, ma che almeno è chiara e trasparente. Questo il ministro Calenda. Sentiamo il ministro dell'ambiente, questo è il ministro dello sviluppo economico, il ministro dell'ambiente Galletti a sua volta che cosa ha detto. Gli interventi vanno fatti, gli interventi per farli richiedono tempo, cioè se io faccio la copertura di un parco non posso pensare di dare un tempo a chi lo deve fare più breve di quello che ci vuole materialmente a farlo, perché sarebbe un'ipocrisia, cioè io non voglio entrare nella mentalità do un termine per poi prorogarlo ancora. Questi sono termini reali, compatibili con le risorse a disposizione. E per questo io lo reputo un buon piano ambientale. E poi ti voglio dire un'altra cosa con molta responsabilità. Non esiste un piano B, non esiste un piano B, quindi attenzione a far saltare la trattativa che abbiamo in corso. Questo è il ministro Galletti, oggi ospite di Simone Spezia qui a Radio 24 a effetto giorno, quindi dice non esiste un piano B, però sentiamo dall'altra parte che cosa ha detto il sindaco di Taranto, sempre a effetto giorno, Rinaldo Melucci. Sul tavolo della trattativa non possono mancare gli enti locali e non può non essere ascoltata la comunità rispetto alle sue esigenze, rispetto al modello di sviluppo di cui si vuole dotare. Io sono convinto tutto sommato della serietà e bontà dell'investitore, però il metodo è completamente ancora sbagliato. Abbiamo vissuto una lunga stagione con il tabù che occupazione, ambiente e salute fossero tutte sullo stesso piano. Oggi le rappresento che per questa comunità che è stata violentata a più riprese, l'occupazione non è più al pari delle altre questioni. Oggi il mantra è l'ambiente e la salute. Allora, Domenico Palmiotti, c'è sempre questo difficilissimo equilibrio che non riguarda solo l'Ilva ma in particolar modo l'Ilva, no? Tra la salvaguardia della salute della popolazione e il mantenimento del livello occupazionale. È sempre molto difficile, no? Trovare il giusto equilibrio. Sì, diciamo che il nodo si va aggrovigliando perché la cessione dell'Ilva, che è avvenuta, l'aggiudicazione è avvenuta a giugno, era partita nei mesi precedenti con un'impostazione molto chiara. Il governo aveva detto il piano industriale è importante, ma il piano ambientale è ancora più importante. Il piano ambientale è il discrimine di tutto. Quindi sulla base di questo criterio sono state valutate le offerte avanzate. Poi ArcelorMittal e Marcegaglia riuniti in AM Investco sono risultati l'offerta migliore, l'offerta vincitrice. Non solo. Nella procedura di gara era previsto anche che le aziende presentassero un piano ambientale, poi questo piano venisse portato al vaglio di esperti nominati dal Ministero dell'Ambiente, i quali hanno anche integrato, corretto, modificato la proposta presentata dalle aziende. E le aziende, questo lo diceva la procedura di cessione, avevano l'obbligo di recepire totalmente le indicazioni del Ministero, perché qualora non l'avessero fatta sarebbero state automaticamente espulse dalla procedura di aggiudicazione dell'Ilva. Questo per dire come il governo dice e ritiene di aver messo la massima cura e la massima attenzione sull'aspetto ambientale. Perché c'è stato il ricorso? Perché c'è il ricorso degli enti locali? Per tre motivi essenzialmente: perché gli enti locali ritengono i tempi di attuazione degli interventi di bonifica troppo dilatati, la conclusione di tutti gli interventi è fissata ad agosto 2023, ma bisogna anche dire che alcuni interventi saranno completati prima, e la copertura dei parchi minerali, che è l'intervento principe di tutto il piano, comincerà a gennaio. Inoltre gli enti locali contestano alcune soluzioni prospettate per determinati interventi. Infine ritengono di non essere stati coinvolti. Sia Emiliano che Melucci dicono: noi abbiamo fatto delle osservazioni al piano di Mittal, però queste osservazioni il Ministero dell'Ambiente non ne ha tenuto conto o ne ha tenuto conto in minima parte, e quindi di qui il ricorso. Qual è il punto adesso? Che tutte le trattative si fermano, la trattativa sindacale si ferma. In queste settimane si stava discutendo e l'accordo col sindacato è vincolante ai fini della cessione di Ilva dall'amministrazione straordinaria ad ArcelorMittal e Marcegaglia. In secondo luogo, non si aprono più i tavoli con gli enti locali. Calenda aveva promesso di fare degli approfondimenti specifici con i territori. Uno avrebbe riguardato Taranto. Infine, c'è da mettere in conto anche il rischio che lo stesso Mittal si defidi, molli diciamo l'operazione e quindi apra davvero un baratro per il futuro dell'Ilva, perché come diceva Galletti, lo abbiamo sentito poco fa, non c'è un piano B, non c'è un altro investitore, non c'è un altro gruppo pronto a subentrare, e quindi questa è l'unica soluzione che si ha al momento in campo, sia per risanare l'ambiente, perché per risanare l'ambiente è ovvio che occorre la presenza di un imprenditore e occorre soprattutto la presenza di capitali adeguati, sia per tutelare i posti di lavoro, che in tutta l'Ilva sono 14.000, di cui 11.000 soltanto a Taranto, indotto escluso. Quindi parliamo di numeri rilevanti. Domenico, quindi a questo punto, per chiudere, si dovrà aspettare la sentenza del TAR di Lecce? Beh, sul ricorso a questo punto, della regione? Sì. gli deve aspettare che il TAR, il ricorso vada al TAR. Presumibilmente bisogna calcolare almeno un mese o due di fermo e poi bisogna vedere che cosa decide il TAR e se si andrà al Consiglio di Stato. Di fatto la cessione dell'Ilva, che inizialmente a giugno sembrava potesse chiudersi definitivamente entro la fine dell'anno, questo appuntamento con la fine dell'anno salta. Era già saltato perché la Commissione europea sta facendo l'istruttoria e quindi l'istruttoria non si chiuderà a fine 2017. Quindi, come dicevi tu, insomma, situazione sempre più aggrovigliata. Certo. Bisognerà vedere nelle prossime settimane, nei prossimi, non so, speriamo non mesi, che cosa succede. Grazie Domenico Palmiotti. Grazie da Taranto, grazie. Stop, please. Please sit down. I have taken poison. Avete sentito, l'abbiamo sentito all'inizio, no? Questo audio così drammatico, anche se si parla in croato, inglese, francese, però è appunto la scena che si è svolta oggi davanti ai giudici del Tribunale dell'Aia per i crimini di guerra di questo ex generale croato accusato appunto di crimini di guerra, condannato a 20 anni nel momento della lettura della sentenza, ha davanti a tutti preso questa fialetta di veleno, l'ha ingerita e poi è morto poco dopo all'ospedale. Si sta parlando quindi di ciò che è conseguito dalla guerra dell'ex Jugoslavia che si è consumata tra il 1991 e il 1995. Su questo saluto il nostro Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore. Ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Una guerra terribile di tutti contro tutti che coinvolse sia le etnie sia le diverse religioni, con infinite atrocità, torture, poi gli stupri di massa, no, che ci furono, e a distanza di anni poi il Tribunale Internazionale dell'Aia, che già si era costituito, se non sbaglio, si è iniziato la sua attività nel 93, per i crimini contro l'umanità, ha condannato i maggiori criminali, proprio una settimana fa anche l'ergastolo al boia di Srebrenica Ratko Mladic, i vari, insomma, diciamo, protagonisti di quella terribile guerra civile. E oggi questo generale, con questa morte, diciamo, teatrale, no? Davanti ai giudici dell'Aia, Alberto. Però è evidentemente, visto che il primo ministro croato ha detto è stata una condanna ingiusta, se l'è presa coi giudici, tanti lo considerano un eroe, vuol dire che i motivi di quella guerra non sono ancora del tutto svaniti. Io questa guerra me la sono vista tutta, già, cara Roberta, per 10 anni, dalla guerra di Croazia, la secessione della Slovenia è stata relativamente pacifica. C'è stato un morto solo, se mi ricordo bene. E poi invece è stata la guerra di Croazia, Vukovar, che diventò il simbolo del nazionalismo croato. Poi c'è stata la guerra di Bosnia, naturalmente, dove i protagonisti sono stati Karadžić, anche lui condannato al Tribunale dell'Aia, Ratko Mladic, quello che è stato definito il boia di Srebrenica, perché a Srebrenica, in una calda estate del 1995, luglio 95, furono uccise 8.000 persone, il più grave massacro della storia europea dalla seconda guerra mondiale. Ci fu l'assedio di Sarajevo che durò 1.000 giorni. E poi ci fu la pace di Dayton a cavallo dal 95 al 96, ma che non fu una pace, fu una tregua, perché poi dopo riesplose la guerra del Kosovo nel 99, 1 milione di kosovari circa furono espulsi dai serbi dal Kosovo, ci fu una tragedia umanitaria incredibile, venne bombardata Belgrado, che non era mai stata bombardata dai tempi della seconda guerra mondiale, quando venne attaccata dalle truppe del Terzo Reich tedesco, e alla fine ci fu la resa anche di Milošević, Slobodan Milošević, che era l'uomo che aveva, il presidente serbo, che aveva dato un po', come dire, la stura ai massacri balcanici con quel discorso a Kosovo Poglia del 1989, in cui proclamò la seguente frase: là dove c'è un serbo, quella la tomba di un serbo, quella è terra serba. Questi massacri hanno fatto oltre 200.000 morti, hanno spostato milioni di persone dalle loro case, hanno stravolto la vita quotidiana di un'intera nazione, quella jugoslava, che era nata dalla Seconda Guerra Mondiale come la nazione più multietnica e multireligiosa d'Europa. Il crollo della Jugoslavia, cominciato nell'89 e finito nei primi anni 2000, è stato forse uno dei più grandi fallimenti dell'Europa, ma anche della convivenza tra esseri civili. A proposito di fallimento dell'Europa e non solo, Alberto, c'è tra i messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, c'è Walter che scrive: crimini di guerra dei croati, serbi e musulmani, ma dei caschi blu che erano lì come a Srebrenica, a Sarajevo, senza impedire i massacri, nessuno dice niente, è tutto normale. In realtà negli anni è stato detto forse non abbastanza, Alberto. Ma certamente, e infatti il nostro ascoltatore ha perfettamente ragione, perché Ratko Mladić proprio nel luglio del 1995 ebbe la possibilità di fare questo massacro proprio perché i caschi blu olandesi delle Nazioni Unite non intervennero, e addirittura c'è una foto emblematica in cui il loro capo brinda addirittura con Ratko Mladić. Questo ci dice tutto, insomma, di quella che fu la tragedia dei Balcani. Però dobbiamo anche riflettere un attimo sul fatto che proprio nel 95 la reazione non fu europea militarmente, ma fu proprio degli americani, dell'amministrazione Clinton, che decise di bombardare i serbi, e l'Europa si accodò. Insomma, l'Europa perse la grande occasione in qualche modo di riaffermare a casa propria quello che erano i diritti alla sopravvivenza e a un minimo di diritti umani per tutti. Alberto, ti chiedo un ultimo commento a un altro messaggio di un ascoltatore, Massimo da Firenze, che dice: ha fatto bene a prendere la fialetta di veleno, noi abbiamo il nostro punto di vista, lui al suo, dove sta la giustizia nel mezzo, onore a quest'uomo. Ma insomma, la giustizia non sta sempre nel mezzo. No, ma io penso che questi siano come dire, i messaggi di chi sta seduto su una bella poltrona e che purtroppo non ha visto. E non ha visto nulla di quello che hai visto tu, che hanno visto le persone. Voglio aggiungere una cosa. Mladić è stato condannato l'altra settimana. Sì. Per i serbi resta un eroe, per i bosniaci è un criminale, e questo generale croato per i croati è un criminale, per gli altri è un eroe, per gli altri è un criminale. E ritorniamo alla domanda che mi hai fatto all'inizio: purtroppo dopo oltre 20 anni le tragedie balcaniche hanno ancora aperte le loro ferite che non si rimarginano. Purtroppo. Grazie Alberto Negri. Ciao Alberto. Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao. Ci prendiamo adesso la pausa. Voi continuate con i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, alla quale tra l'altro potete aderire senza indugio, e poi il numero per SMS e WhatsApp, che è sempre 349-238-6666. Igor invece, a proposito della Corea del Nord, dice: Trump annuncia forti sanzioni verso la Corea del Nord, e chi gli tolgono adesso anche l'aria? Tra poco ne parleremo. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete al posto giusto, nel momento giusto, se volete con voi la giusta conduttrice Roberta Giordano. Ringrazio per i vostri messaggi, stanno arrivando come sempre tutte le sere sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure gli SMS e WhatsApp, che invece vanno al numero 349-238-6666. Ringrazio in particolare Cristiano, e poi anche Serena, che dice: con Alberto Negri anche con te ogni tanto ripasso la storia. In realtà con Alberto Negri, che è bravissimo in questo, inviato speciale del Sole 24 Ore, che tante ne ha viste e ne ha fatte. Poi invece Giorgio, critico sull'Alfa Romeo che torna dopo 32 anni in Formula 1, dice: Alfa Romeo Sauber Ferrari, la nuova arna della Formula 1, sarà sempre in panne. Già prevede così, diciamo, piuttosto pessimista e critico Giorgio. Poi invece l'ascoltatore Luca, che scrive: buonasera Roberto, il primo dittatore sanguinario di quelle zone inizio secolo, cioè dell'ex Jugoslavia, non fu Tito, o sbaglio? Certo. E poi quando finì, morì, e la sua mano forte, il suo polso di ferro venne meno, si è visto questa disgregazione che ancora, insomma, è sempre lì latente. Adesso però ci occupiamo oltreoceano di Corea del Nord, di Stati Uniti, di quello che sta succedendo. Proprio ieri sera abbiamo parlato, abbiamo dato notizia poco prima di entrare in Effetto Notte in diretta, ho visto questa notizia del nuovo missile balistico lanciato da Kim Jong-un, il dittatore nordcoreano, e subito poi ci sono state le reazioni di Trump. Ne abbiamo parlato ieri, però ci sono delle cose ulteriori su cui aggiornarci tra poco. Dicevo, ci colleghiamo con gli Stati Uniti, però se non avete seguito quali sono le notizie principali della giornata, vi ricordo che sono appunto sulla manovra che ormai è approdata al Senato. C'è stata un po' di tensione sul bonus bebè tra Alternativa Popolare e il governo, che però ha rassicurato che appunto ci saranno, sarà strutturale, ci sarà per i prossimi anni. E poi il suicidio davanti al tribunale dell'AIA, di cui abbiamo appena parlato, quindi un nuovo criminale, ex generale croato, che è stato condannato a 20 anni oggi dal tribunale dell'AIA, che proprio davanti ai giudici si è suicidato bevendo una fialetta di veleno, condannato a 20 anni mentre si leggeva questa sentenza. E poi Corea del Nord, ce ne occupiamo adesso. Questa notizia, ancora un alone di mistero che arriva dal Vaticano, cioè un alto dirigente dello IOR, che è la Banca Veneta, che è stato licenziato e scortato fuori dalle mura del Vaticano. L'avvertenza dell'Ilva, sempre più aggrovigliata, come abbiamo sentito. E poi per lo sport, appunto, l'Alfa Romeo che torna in Formula 1 dopo 32 anni. C'è il nostro Marco Vassani in collegamento, corrispondente del Sole 24 Ore da New York. Caro Marco, ci ritroviamo dopo ieri. Buonasera, a proposito, ciao. Ancora ciao, della sfida nucleare di Kim Jong-un. Ieri appunto questo lancio del nuovo missile balistico, che il Pentagono ha classificato come un missile intercontinentale, e la Corea del Nord oggi ha ufficializzato che è uno stato nucleare. Hanno detto con orgoglio: noi siamo uno stato nucleare capace di arrivare con i nostri missili e di scatenare una guerra atomica, un successo storico, perché siamo capaci di raggiungere con questi missili anche gli Stati Uniti. Trump ha annunciato nuove sanzioni. Igor, un ascoltatore, ironicamente diceva: adesso con nuove sanzioni che gli leviamo l'aria, visto che dice alla fine ci sono già molte sanzioni. Però Trump oggi ha chiesto al presidente cinese di usare tutte le leve a sua disposizione per cercare, insomma, di riportare a più miti consigli Kim Jong-un, e Pechino ha detto: siamo disposti, però attraverso mezzi pacifici. Poi dovrebbe essere già in corso la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Marco, su questo tema? Sì, era convocata per questo pomeriggio. Non è chiaro anche qui quanto davvero, al di là di condanne molto drastiche, drammatiche, decise, che già sono risuonate, diciamo, nelle sale del Palazzo di Vetro, come anche nelle grandi capitali, a partire da Washington, ma anche appunto a Pechino e in Giappone e in Europa. Ecco, al di là delle dure condanne e di così di giri di vite, di sanzioni, gli americani, appunto, come dicevi, che l'amministrazione Trump sta a questo punto cercando di mettere a punto giri di sanzioni che si diceva possano in qualche modo colpire in modo più ampio società che fanno in qualche modo affari o abbiano rapporti con entità della Corea del Nord, quindi allargare quel tipo di raggio di sanzioni. Ecco, da qui a dire però che queste saranno davvero efficaci, che possano in qualche modo incidere sulle intenzioni, sui progetti di Kim Jong, sicuramente ce ne corre. Ecco, l'amministrazione Trump sembra trovarsi in questo momento in un dilemma, diciamo, difficile, perché appunto dopo la retorica bellicosa del passato, strada è rimasta quella, diciamo, maestra è rimasta quella comunque dei giri di vite diplomatico, politici, economico, finanziari, e quindi che in qualche modo fanno leva in particolare su Pechino come paese più vicino a Pyongyang. E come ricordavi, una delle prime telefonate di Trump è stata proprio ai vertici cinesi per appunto cercare di sollecitarli a agire con ancora maggior forza. A questo punto si tratta di vedere come questa escalation si evolverà, se potranno davvero maturare in qualche modo diciamo delle soluzioni diplomatiche, cioè delle aperture a livello politico diplomatico grazie a pressioni cinesi o altro, diciamo, rispetto a Pyongyang, oppure se si continuerà su questa strada di costanti tire e molla, di costanti provocazioni e risposte dure in un clima che poi lascia aperte anche la possibilità di eventuali tragedie. Ecco, cioè, Tony Trump oggi, l'amministrazione Trump, sono parsi un po' più contenuti o quantomeno come dire prevedibili rispetto al passato. Non ci sono state dichiarazioni da fuoco e fiamme, dichiarazioni interverremo, faremo delle cose, ecco. Il tono, diciamo, quindi appariva più serio e preoccupato. Da lì a dire però c'è in campo una strategia a questo punto. Marco, ti stiamo perdendo. Da qui a dire che però c'è in campo una soluzione, una strategia anche solo, per arrivare a disinnescare questa crisi nucleare con la Corea del Nord, appunto ancora ne passa, nessuno è in grado di saperlo. L'importante sarebbe almeno avere una strategia. Lucio, cioè, propone una strategia, dice: pensando all'arroganza sconsiderata della Corea del Nord, di Kim Jong-un, dice: embargo a parte, si dovrebbe hackerare tutti i siti, far vedere e capire ai coreani chi e cosa fa il loro dittatore, spiegare che il mondo è più grande della Corea. Ma Lucio, potrebbe essere questa una cosa, non so se sia possibile, ma insomma ci vuole ben altra strategia. Tanto grazie del suggerimento, grazie a Marco Valsania da New York. Ciao Marco, adesso c'è la viabilità e poi passiamo ad un altro tema. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Quante notizie raccontate sinora, anche con gli ospiti, quanti approfondimenti. Adesso continuiamo e vi aggiorno anche su due notizie. Una è questa, che in Sicilia, dopo le elezioni che sono state recenti, che vinte dal centrodestra, c'è la lite all'interno del centrodestra con la Lega, perché salta in Sicilia il patto Berlusconi-Salvini, che ha portato appunto alla vittoria di Musumeci. Nasce la giunta Musumeci con un componente di Fratelli d'Italia, ma senza Lega, e provoca lite tra i possibili alleati delle politiche, quindi un ulteriore problema sulla strada delle alleanze per il centrodestra per quanto riguarda le elezioni politiche di primavera. E poi questa notizia, anche arrivata pochi istanti fa, una nuova aggressione. Dopo quella del 15 novembre, una troupe della trasmissione Striscia la Notizia a Bologna, spintonata da un gruppetto di spacciatori nel parco della Montagnola di Bologna, che ormai insomma sembra un po' fuori controllo. Era una città così bella e delle zone così belle anche a Bologna. Comunque, adesso cambiamo argomento, parliamo di qualcosa di più rilassante, di più sereno, ma vi ricordo per i ritardatari quali sono le notizie più importanti della giornata. Appunto, questa lite che c'è all'interno del centrodestra in Sicilia dopo le elezioni, perché manca un componente nella giunta Musumeci della Lega. Poi la manovra economica, c'è stata tensione nella maggioranza sul bonus bebè a proposito della misura che deve essere strutturale secondo Alternativa Popolare. Il governo assicura che è una misura che sarà stabile. Suicidio davanti al tribunale dell'Aia, ne abbiamo parlato. La lettura della condanna a 20 anni per crimini di guerra, l'ex generale croato Prajak beve il veleno e muore. Corea del Nord, ci siamo appena occupati di questo collegandoci con gli Stati Uniti, in corso la riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, ma ancora una strategia non c'è per arrivare a qualche soluzione sperabilmente pacifica. Vaticano, un alto dirigente dello IOR, della Banca Vaticana, licenziato e scortato fuori dalle mura. Poi l'avvertenza dell'ILVA, scontro tra governo e regione, il ministro Calenda congela per il momento il negoziato. E poi l'omicidio di Maria Grazia Cutuli, due afghani condannati a 24 anni per la morte dell'inviata del Corriere della Sera. Per lo sport, a Milano è stato presentato il Giro d'Italia 2018, più di 3.500 chilometri saranno da Gerusalemme a Roma, e poi l'Alfa Romeo che torna in Formula 1 dopo 32 anni. Oggi a Milano, questa è la grossa novità, c'è stata la preinaugurazione per la stampa di City Life Shopping District, che è il nuovo mega centro commerciale a Milano, nel quartiere che è appunto denominato City Life, il più grande centro commerciale urbano d'Italia, con l'area pedonale complessiva tra le più grandi d'Europa, quindi pensate che proporzioni, per il quale l'apertura al pubblico comincia domani 30 novembre, domani c'è la grande inaugurazione. Il nuovo spazio è su tre livelli, con negozi, ristoranti, un cinema multisala, un investimento complessivo di circa 2 miliardi di euro, 32.000 metri quadrati disegnati da Zaha Hadid, la grande architetta irachena naturalizzata britannica che ha ricevuto tanti premi nella sua carriera e che è morta prematuramente a 66 anni lo scorso anno. Lo spazio centrale ospiterà tanti negozi, ma anche tanti eventi, tante attività. All'interno del mall, come ormai si chiamano questi enormi centri commerciali, c'è anche City Life Spazio Cinema, appunto sette sale per la proiezione per una capienza complessiva di 1200 posti. C'è uno spazio dedicato alla salute e al benessere, un supermercato gourmet, insomma c'è veramente di tutto. E saluto su questo Francesco Morace, sociologo dei consumi. Buonasera Francesco Morace. Buonasera radioascoltatori. Una cosa enorme, andiamo subito sul lato pratico e sentiamo che cosa ha detto al microfono della nostra Maria Luisa Pezzali l'assessora all'economia e allo sviluppo economico di Milano, Tajani. Sicuramente un'apertura importante, non soltanto in termini di impatto commerciale, ma anche in termini di impatto occupazionale sulla città. Ad oggi gli assunti per l'apertura sono circa 580, che potranno arrivare a quasi 700, anche grazie alla collaborazione tra City Life e il Comune di Milano, che mette a disposizione i propri centri di formazione professionale per il reclutamento e l'addestramento delle persone addette alla ristorazione, alle attività di vendita. Quindi per noi è una buona notizia anche in termini di offerta e di risposta di nuova occupazione, di cui molti a tempo indeterminato, e questo è importante. Quindi questo per l'occupazione, no? È importantissimo, Francesco Moraccio. Invece da un punto di vista dei consumi, di che cosa ci dicono queste nuove nascite di centri commerciali sempre più grandi, sempre più multifunzionali? Ma allora, io non li definirei centri commerciali, nel senso che forse la definizione più corretta è distretto urbano, perché tra tutte le cose già giustamente infatti si chiama City Life Shopping District, così. Esatto, e non è solo shopping, perché l'area della salute in realtà è il centro diagnostico italiano, che è uno dei centri comunque più importanti di ricerca sul tema della salute e delle malattie. Quindi quello che è importante segnalare è che si progettano oggi questi spazi in un modo nuovo, con una logica nuova, in cui ad esempio accanto alla dimensione shopping, che è sicuramente importante, c'è anche il terzo parco più grande di Milano, perché dopo il Sempione e Porta Venezia ci sarà uno spazio con una ciclabile. Questo io credo che sia importante, cioè capire che oggi quando si progettano questi luoghi non sono più delle cattedrali che arrivano, che sono solo del consumo, ma si ragiona in termini direi quasi di quote, no? di presenza sia di shopping che di spazi verdi, che di vivibilità e di per servizi. Moraci, quindi una specie di città nella città. Ecco, una specie di città nella città, diciamo pure di quartiere, quindi distretto nel senso anche del quartiere. Forse l'esempio più simile a Milano è un po' la piazza, che anche lì con il grande grattacielo e con una dimensione, diciamo la piazza Gaia Olenti, che è diventato un luogo di cui i cittadini si sono appropriati al di là dello shopping. Molto secondo bella, me sì. Questo è importante, perché contemporaneamente, per chi magari non sa nel dettaglio quali sono le dinamiche del retail, stanno invece chiudendo i grandi ipermercati, diciamo alle periferie delle città, cioè quel modello che ad esempio in Francia ha devastato il territorio, che per fortuna in Italia non è mai arrivato o è arrivato solo in parte, oggi viene sostituito da un ragionamento sulle città, sul cuore delle città, dove sicuramente c'è lo shopping, c'è l'intrattenimento, c'è il cinema, ci sarà anche un museo e una grande ciclabile. Quindi secondo me questi sono aspetti da segnalare. Quindi una valutazione molto positiva, al di là, dicevamo, dei posti di lavoro, dei servizi in più che si offrono, però anche da un punto di vista multifunzionale del servizio, ma anche simbolico, è un dare sempre più importanza ai centri delle città, alle città in generale, voglio dire, non solo al centro, ma senza spostare tutto, come si faceva anche, per esempio, si è fatto finora anche con i cinema, no? Tanti cinema, esatto, storici all'interno delle città, spostati in periferia, nei multisala, così un po' anonimi. Invece qua ci saranno 7 sale addirittura e sono facilmente raggiungibili. Assolutamente, io devo dire che da questo punto di vista Milano sta davvero diventando un laboratorio che tra l'altro anche da tutti gli altri cittadini europei viene osservato con grande attenzione. Possiamo dire, alcune ricerche ci dicono che dopo Berlino Milano comincia a essere la città più attrattiva da questo punto di vista. Quindi diciamo anche per il turismo molto positivo, no? Questo per il turismo, sappiamo che a Milano c'è un turismo legato agli affari, c'è un turismo legato allo shopping, però comincia a esserci un turismo interessato sia all'architettura che alle nuove soluzioni urbane. Questa credo che sia una bellissima notizia per noi che a Milano ci viviamo. E anche per chi vuole venire a passarsi, insomma, qualche giornata. Grazie Francesco Morace, sociologo dei consumi. Grazie, buona serata. Grazie. Noi ci lasciamo brevemente, sapete che poi ritorno giusto a ricordarvi i titoli principali alle 22:00.